l'altra Europa. Buon sabato da Federico Tadia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, dalla postazione di Radio 24 in piazza Pasil, cuore del festival. Tante dirette, Radio 24 c'è. Noi siamo l'Altra Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Lo sapete, tante radio diverse, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. Oggi una carrellata di ospiti, qui alcuni protagonisti del festival, altri protagonisti dell'Europa che c'è a Trento. Do subito il benvenuto qui con me in studio ad Antonia Caula, responsabile unità rapporti internazionali delle Muse, il Museo delle Scienze di Trento. Ciao Antonia, ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti. E Carlo Maiolini, project manager sempre dei rapporti internazionali e dei progetti europei. Ciao, ciao, ciao Carlo. Andremo a scoprire appunto le Muse, questo fantastico museo di forte ispirazione europea, ma non solo è ispirato nella costruzione, nelle attività, ma è anche proprio cuore di tantissimi progetti finanziati dalla Commissione europea. Andremo a capire oggi appunto quello che combinano. Non solo, con noi altri protagonisti, ci saranno un po' di ragazzi Erasmus che hanno scelto proprio Trento per mettere al centro la loro mobilità scolastica ed altri ospiti che arriveranno. Però ci colleghiamo subito con chi ieri sera è stato protagonista qui al festival con una bellissima lezione sulla mobilità sociale dal suo punto di vista, Alessandro Bergonzoni. Ciao Alessandro. Buongiorno e scusate di non... Mi piace non essere lì personalmente, ma è come se ci fosse. Lo sappiamo, ti abbiamo voluto. Adesso, ieri sera l'ho introdotta come lezione, però è stata un'ispirazione, nel senso che hai buttato dentro a questo pubblico che era lì, che aveva sete di nozioni economiche, elementi importanti, quale l'arte, quale la poesia. È quello l'ingrediente di svolta, secondo te, per la nostra economia? Ma indubbiamente l'economia richiede etica, ma richiede prima poetica. Mi viene da sostenere che non c'è etica se non c'è poetica. È un'arte anche quella dell'innumerevole. L'economia parla spesso dei numeri, della matematica, delle cifre, delle statistiche, parla delle stime. Senti come le parole ci chiamano, la stima, stimiamo i danni e alle volte non stimiamo i danneggiati. Stima che ci siano 2 milioni di morti, si stima che ci siano 4 milioni di debito, si stima. Il concetto è quello che l'arte, la letteratura, la scrittura stanno chiedendo all'economia di non essere soltanto economia. Ecco perché ieri sera ho fatto con delle slide, diciamo così, mentali, in collegamento col fenomeno, col festival della spiritualità, col festival della mente, col festival della salute. L'economia è una questione di salute. Stiglitz ieri parlava di cosa succede in America sulla mobilità, di cosa succede in Italia, ed è solo una questione di malattia mentale alle volte, che fa decidere qualcuno di non rendere equa la vita. È detto che non è sufficiente l'anticorruzione, non è sufficiente l'antimafia, serve altro, vero? E oggi si parla di impresentabili, di come ci si presenta. Molto spesso gli zingari sono impresentabili, come arrivano gli emigranti sono impresentabili. Che cos'è impresentabile? Qual è la dignità? Poi di quale dignità? La nostra che vogliamo rispettare o quella degli altri? Allora ieri sera ho parlato di antemafia, di antecorruzione, cioè come facciamo a non arrivare lì? L'economia si deve chiedere anche questo: quale energia interiore o ulteriore devo trovare? Perché non mi devo risparmiare le mie energie di uomo, di essere, per poter essere io colui che non paga la mafia a certe trasmissioni, a certi giornali, a certa pubblicità? L'antecorruzione, quante volte io sono corrotto, ma non perché compro voti o parto per la tangente, coi soldi della tangente me ne vado in giro per il mondo, ma quante volte io decido di cedere davanti al senso acritico, davanti al subire, davanti al sopportare. Shakespeare diceva subì or not subì. Quanto subiamo in silenzio? L'economia deve chiedere all'uomo di tornare sovrumano. Ieri sera, tra l'altro, ci hai presentato anche questa banca dei peli, di cui adesso forse non entriamo nei dettagli. La banca del pelo è così, ci sono pochissimi soldi. Ho scritto tempo fa che se tornassimo a usare la neve avremmo le banche sui rami, nei terrazzi, e soprattutto non guarderemo la borsa ma guarderemo il meteo. È una cosa più poetica, ma la banca del pelo è questo. Si dice sempre: per un pelo non mi sono laureato, per un pelo non ho avuto un mutuo, per un pelo non ho potuto. Ecco, la banca dei peli cosa ti dà? Non soldi, che non ha più, ma ti dà proprio quel pelo mancante. Mi piace, io lo chiamo credito villoso. Non so se Piketty potesse lavorare su questo tema. Dà assolutamente l'idea. Si parla anche di mobilità. La statistica ci dice proprio su mobilità, ti ho anticipato, carissimo. Il tema è questo: da una statistica fatta su i cani incidentati, viene investito un cane ogni 3 minuti nel mondo, sempre quello però. Allora il tema è: accanimento capitale o capitato? Questa è la domanda della mobilità. Ma noi siamo immobili, siamo case. Il problema degli immobili in Italia sono gli uomini immobili. Il problema della mobilità sociale è che il capitale umano, i capitali, vengono esportati dall'Africa, da dove, in Europa si chiama capitale umano quello. Ed è l'esportazione di capitale all'estero, offshore. Qualcuno potrebbe dire con motoscafi, no, assolutamente con barche o con banche, o senza banche o con barche, o barche rotte fraudolente, vedi tu. Questa è la mobilità sociale, secondo Alessandro Bergonzoni, una mobilità soprattutto mentale. Grazie davvero, Alessandro, per aver aperto e questa puntata. Non abbiamo paura a parlare di anima. L'anima è quotata in borsa, ma esiste anche a prescindere da lì. Ci piace. Ciao Alessandro, grazie, buon sabato. Buon lavoro, grazie per quello che fate. Ciao Taddea, ciao Alessandro. Adesso è in viaggio, noi diamo proprio spazio alle informazioni del traffico, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa dal Festival dell'Economia di Trento. L'Altra Europa. Ancora l'Altra Europa, ancora in diretta dal Festival dell'Economia di Trento. Ci ha raggiunto intanto Dorotea, una delle ragazzi, una delle studentesse che ha scelto Trento per l'Erasmus. Ciao Dorotea. Ciao. Ciao, buongiorno. Da dove vieni? Dalla Romania, da Timișoara. Fantastico. Cosa studi? Architettura. Ok, allora fra poco scopriremo cosa significa in questo concetto alto di mobilità scegliere Trento per un periodo di studi. Prima però andiamo al Muse. Allora, con noi Antonia Caola, Unità Rapporti Internazionale. Cosa vuol dire, Antonia? Tanto il Muse cosa rappresenta oggi? È un museo, un'eccellenza italiana, ma è un'eccellenza europea, sì, anche. Sì, sì. Questa parola eccellenza, forse abusata, ce la sentiamo però addosso con abbastanza merito forse, o comunque abbastanza pertinenza direi in questo momento. Un successo decretato dal pubblico che ci viene a visitare il 5 maggio scorso. Dopo 21 mesi dall'apertura abbiamo appunto staccato il primo biglietto che ha sancito il primo milione di visitatori, quindi una cosa molto strana per un museo delle scienze, almeno nel nostro paese. E questo ci ha proiettati con un siluro nella sfera dei musei importanti a livello internazionale. Uh-huh. E quanta Europa c'è dentro al Muse? Il Muse nasce proprio da una intuizione della nostra direzione e poi seguita da un approfondito studio che è durato vari anni, sollecitato proprio da un contesto europeo, ovvero l'occasione di aver incontrato dei nostri colleghi, anche grazie a un'associazione, poi magari ne parleremo tra poco, perché questa associazione si troverà tra 10 giorni qui a Trento a fare il loro convegno annuale, ha dato il via a il progetto di costruire questo nuovo edificio, che adesso accoglie anche un nuovo modo di parlare di scienza, di natura, di tecnologia, ma al contempo anche di sfide sociali e di problemi che, guardati dal punto di vista locale, ci portano a considerare anche questioni globali, questioni mondiali, non solo europee. Infatti ne parleremo fra pochissimo. Con noi c'è anche Carlo Maiolini. Tu, Carlo, in particolare hai seguito un progetto che ha il lupo al centro. Anche questo è un progetto europeo, un progetto di salvaguardia del lupo. Sì. Il programma è LIFE, il programma che la comunità europea dedica alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. E il progetto è LIFE Wolf Alps, che segue il ritorno, la gestione e la conservazione del ritorno del lupo sulle Alpi. Dopo essere stato cacciato circa più di 100 anni fa dall'uomo, da quasi tutta Europa, anche con delle campagne, diciamo, europee di persecuzione della specie, l'Europa per fortuna ha cambiato idea e adesso sta supportando il ritorno, attenzione, naturale, diversamente da altri progetti LIFE tipo quello sull'orso. Il lupo sta tornando nella nostra regione, in Trentino, ma su tutto l'arco alpino con le proprie gambe, e sta supportando questo ritorno di questo animale bellissimo. Però pone anche delle sfide sociali non indifferenti, perché proprio come l'orso, forse più dell'orso, il lupo è un predatore e per una parte della popolazione, soprattutto chi ha pecore o chi ha vacche, e può portare appunto dei problemi. Il MUSE, in collaborazione con il partner, il beneficiario coordinatore, che è il Parco Naturale delle Alpi Marittime, cura la comunicazione, aspetto importantissimo nella gestione dei grandi carnivori, e in particolare stiamo seguendo appunto tre messaggi chiave. Il primo, che questo ritorno non pone pericoli per l'uomo, quindi il lupo non aggredisce l'uomo, non ci sono attacchi negli ultimi 100 anni di lupo all'uomo. Il secondo, che è possibile la prevenzione, quindi nonostante il lupo stia ritornando, gli allevatori, se attuano una serie di misure di prevenzione, possono, diciamo, in qualche modo salvaguardare quasi tutte le loro pecore. Questo quasi è un po' inquietante, però qualche predazione la quota Ezechiele la chiamiamo. E terzo, appunto, quello che dicevo prima, che diversamente dall'orso il lupo sta tornando, diciamo, il nostro progetto non sta reintroducendo il lupo sulle Alpi, sta tornando con le proprie gambe dalle popolazioni appenniniche e qualche lupo anche dalla Slovenia. Tra l'altro c'era una sezione del museo dedicata, non so se c'è ancora la mostra, era una mostra temporanea quell'altra dedicata. Una delle azioni di comunicazione che abbiamo curato proprio come MUSE è stata questa mostra che abbiamo inaugurato al MUSE il 20 dicembre dello scorso anno. Adesso è a Verbania, fra l'altro il Giro d'Italia è passato da lì e c'è stata una visita sponsorizzata dal Giro a questa mostra, e poi girerà tutto l'arco alpino seguendo un po' il percorso del lupo. Perfetto, grazie Carlo. Antonia, torniamo invece a quello che succederà dentro al MUSE tra l'11 e il 13 giugno, quindi fra una decina di giorni. E tra una decina di giorni 1000 esperti di musei e centri della scienza europei e da tutto il mondo si ritrovano al convegno annuale Excite. È un'associazione, la più grossa associazione europea, che lavora a favore della collaborazione e dell'informazione tra appunto musei e centri della scienza. Cosa significa? Questo convegno, che ha un titolo abbastanza divertente, che si intitola appunto Food for Curious Minds, cibo per menti curiose, vuole essere il momento scambio di quello che è il trend più attuale nei musei della scienza, scambiandosi anche problematiche che sono relative a volte anche ad aspetti pratici, organizzativi, altre ad aspetti economici, di sopravvivenza di certi musei, perché non tutti sono musei di dimensioni tali da poter garantire una continuità al massimo delle loro capacità nel tempo. È un convegno appunto per il quale stiamo finendo gli ultimi dettagli organizzativi e al quale parteciperanno, dicevo, 1000 esperti, ma la cosa più divertente di tutti è che questi esperti da tutto il mondo, attraverso appunto il canale della lingua inglese, si scambiano tantissime esperienze, nozioni, ma soprattutto possibilità di collaborazione. È specificamente intesa anche come occasione per trovare relazioni e instaurare rapporti di simpatia e fiducia, per cui poi creare dei progetti assieme. Dorotea, hai visto il Muse? Tu che ti occupi di architettura, sei stata? Sì, sono stata un paio di volte. Ti è piaciuto? Come... sì, ma Renzo Piano è uno degli architetti del momento, quindi non posso dire niente di male. Dorotea, tu hai scelto di fare l'Erasmus perché? Oggi cioè, c'è la comunità dei tuoi amici fuori, si riconoscono dallo spritz in mano. Perché chi fa l'Erasmus a quest'ora ha lo spritz, questo è, è certo. E, hai scelto di fare l'Erasmus perché? C'è un'opportunità che la nostra generazione ha di viaggiare e di riuscire a capire un'altra cultura più vicino. Mm-hmm. Arrivi in un posto e riesci a fare anche amicizie e così riesci a capire una cultura meglio di quando stai viaggiando, quando leggi un libro o fai un tour con una guida. È un'opportunità e anche dal punto di vista architettonico ho l'opportunità di avere professori che sono molto molto bravi e Italia è famosa per restauro, quindi cioè, sono qua per imparare e anche per capire meglio come funzionano le cose un'altra parte di Europa. Certo. Tante volte abbiamo detto che la generazione Erasmus, che comunque l'Erasmus è un po' la colonna importante, soprattutto dal punto di vista un po' culturale, anche di identità dell'Europa, ti sta aiutando questa esperienza Erasmus a capire meglio proprio il concetto anche di Europa o sono due cose separate? C'è un concetto, c'è una cosa molto interessante perché più viaggio più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo, non è il mio paese, è la nostra Europa, cioè, riesci a capire che la tua identità non è solo data dal tuo paese o dalla tua città, ma è un mix perché cioè, ci siamo tanti che non siamo 100% italiani, 100% rumeni, cioè, tutti abbiamo un nonno che è italiano, uno è tedesco e così riesci a capire più culture e quando viaggi un sacco riesci anche a imparare, non lo so, sul cibo, Expo, certo. Tutto così. Grazie davvero Dorotea, ci sarà un po' una giostra di Erasmus in questa puntata dell'Altra Europa. E torno prima di salutare ad Antonia. Carlo Antonio, un progetto europeo anche per disegnare i vestiti del futuro. Cosa avete combinato? È stato un progetto divertentissimo. Kix, una collaborazione di tantissimi paesi che hanno messo insieme arte, scienza e tecnologia per cercare di incentivare delle forme di economia possibile, nuova. Kix appunto per noi ha significato collaborare, per noi Muse, per noi Italia Trento, collaborare assieme al museo di Pilsen e un Fab Lab di Grenoble, la Casmat, nella realizzazione di un'ipotesi di vestito che i nostri giovani 14-17 anni hanno immaginato di poter indossare tra 20 anni. Quindi assieme a un istituto professionale coltiva e dà in mano un mestiere appunto a le persone che poi andranno a fare designer di abiti, abbiamo collaborato e realizzato col nostro Fab Lab quello che è un abito del futuro, cioè per raffigurarvelo era un intricato ricamo fatto con la stampante 3D di una plastica duttile leggera da indossare. Lo hai indossato? Ma no, io ho delle dimensioni che non ci stanno dentro lì. Un grazie ad Antonia Caule e a Carlo Maiolini del Muse, muse.it per tutte le informazioni, excite.eu invece se volete nello specifico, dritte coordinate riguardanti il convegno internazionale. Salutiamo anche Dorotea, adesso altri ospiti, altri Erasmus qui a Trento. Ancora l'Altra Europa subito dopo la pubblicità. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora l'Altra Europa in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, la postazione di Radio 24 in piazza Mario Pasi, una giostra di protagonisti qui nel nostro ai nostri microfoni. Dole, ben tornata l'altra Europa. Eric Josef, corrispondente in Italia di Liberation, direttore di Utopia. Ciao Eric, buongiorno. Bentornato. Sarai protagonista di questo incontro domani? Domani, giusto? Domani alle 4. Sì, mi stavo chiedendo quanti giorni avesse maggio, mi sono un attimo perso il 31 maggio, non sapevo se era oggi o domani, scusami. Dalla scuola al lavoro, cosa non funziona nel modello tedesco? Poi Jacopo Sforzi, ciao Jacopo, benvenuto. Jacopo, sei ricercatore di un istituto trentino, Eurix. Eurix, esatto. Che cos'è? Eurix è un istituto, l'acronimo per Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale. Uh-huh. Siamo un istituto quindi che promuove la conoscenza e l'innovazione delle imprese cooperative, delle imprese sociali e delle imprese non profit. All'interno dell'istituto facciamo numerose attività, la principale attività ovviamente è quella di ricerca, alla quale affianchiamo anche attività di formazione dedicata sia a neolaureati che vogliono intraprendere un percorso all'interno delle cooperative, soprattutto cooperative sociali, e quindi gestiamo un master in gestione delle imprese sociali, ma offriamo anche formazione poi a manager di imprese cooperative o a chi lavora nell'ente pubblico, e sono corsi diciamo di alta formazione. Corsi legati appunto all'innovazione nelle imprese sociali e all'innovazione sociale più in generale. E allo stesso tempo offriamo anche poi servizi di consulenza a attori sia del territorio, quindi le stesse cooperative del territorio, ma anche collaboriamo con l'università, con la provincia, e collaboriamo anche a livello nazionale e internazionale con altri centri di ricerca e altre università. In particolare più qui al Festival, oltre ad essere presente in varie sessioni, c'è anche un'iniziativa parallela, questo Allora Crealo, di cui ne parliamo tra un attimo. Poi c'è anche Anissa invece, studente Erasmus Mondo turca qui a Trento. No, ciao Anissa. Tunisina. Tunisia, scusa, no, la prima della... infatti ho confuso. Ciao Anissa. Ciao. Da quanto sei a Trento? Da settembre, quindi faccio Erasmus Mundus per un anno. Quindi faccio spiegare a te che cos'è Erasmus Mundus. Allora, è praticamente Erasmus però tra i paesi europei e non europei. Uh-huh. Cioè è la stessa cosa praticamente. Come stai vivendo questa esperienza? Ti sta piacendo? Sì, molto. Allora, cioè, era veramente un'esperienza molto ricca. Mi sono fatta delle nuove amicizie. C'è anche la lingua, perché quando sono venuta qua potevo capire, ma non potevo esprimarmi bene. Sì. Dato che sono qua, quindi ho dovuto usare l'italiano ogni giorno con gli amici attorno che mi stanno sempre correggendo, ma soprattutto mi prendono il giro tutto il tempo. Fa parte del gioco, fa parte del gioco. Studi economia, quindi insomma il festival è anche il tuo ambiente. Sì. Com'è l'Europa vista dalla Tunisia e com'è adesso la Tunisia vista dall'Europa, da quello che stai vivendo in questi mesi? Allora, io posso dire che non c'è una... cioè per me non era difficile adattarmi, perché siamo vicine. Uh-huh. E c'è anche il fatto che sono venuta qua tipo, non so, quattro volte prima, quindi ho fatto anche degli scambi culturali, perché mia mamma fa la professoressa di italiano in Tunisia, quindi diciamo che non era difficile vivere qua e, boh. Uh-huh. E adesso però che sei qui, sei in Italia, sei con altri ragazzi europei, che hai un po' captato, hai notato, ti sei fatto un'idea della percezione che qui hanno della Tunisia, visto anche la tanta confusione che c'è in queste settimane nei discorsi tra Europa e Nord Sì. Africa? Sì, un po', perché loro non sanno come stiamo vivendo, non so, pensano che non sono così la Tunisia non è così sviluppata, però io sto provando di fargli capire che non è così. Però beh, ci sono anche quelli che sanno bene com'è la vita lì, perché magari hanno già visitato la Tunisia e quindi Insomma, questo è uno anche degli obiettivi di Erasmus ed Erasmus Mondo in questo, esatto, particolare, proprio dare idea concreta, no? La contaminazione culturale. Grazie Anissa per la tua testimonianza. Grazie a te. Eric, sei qui a Trento per smontare il modello tedesco? Io sono qui per discutere con Eike Solga, che è una giovane, uno dei principali sociologa tedesca, che in effetti lei cerca in qualche maniera di andare in profondità nel modello tedesco per rimettere anche in discussione alcune idee che ci sono sulla, ad esempio sull'idea che la formazione dei giovani in Germania spiega il tasso di disoccupazione basso e il funzionamento del modello tedesco. È una sociologa che si pone delle domande semplici ma che sono essenziali per affrontare la questione delle diseguaglianze, della mobilità sociale. Si chiede ad esempio se un Stato vuole investire per ridurre la povertà, se è meglio investire direttamente e ridistribuire soldi alle famiglie più disagiate o investire su educazione, su quale tipo di educazione. E dunque domani parleremo del appunto, modello tedesco con una sociologa tedesca. Eric, Spagna, Grecia, Polonia, dove non andrà in vacanza la Merkel quest'estate? Quale delle tre nazioni sta preoccupando di più l'opinione pubblica tedesca? Se queste tre situazioni hanno mosso o colpito l'opinione? Questo io seguo in particolare l'opinione pubblica francese che è molto preoccupata, ma devo dire che è l'opinione pubblica europea che in qualche maniera deve essere molto attenta e allerta a quello che è successo. I segnali si ripetono, poi sono dei segnali che sembrano senza avere delle veramente conseguenze e reazione. Il problema è che adesso siamo veramente su due esiti che rischiano di essere molto traumatici per l'Europa. C'è la questione greca che non è ancora risolta e poi ormai ci sarà anche il referendum britannico entro probabilmente nel 2016, comunque entro il 2017. Dunque lì veramente c'è l'idea di rimettere, ci dovremmo porci il problema di rimettere in campo il cantiere dell'approfondimento dell'Europa, perché non possiamo soltanto vederla sfilosciarsi, cioè forse la Grecia, forse la Gran Bretagna, ma anche le spinte populisti. Bisogna veramente rimettersi a affrontare l'elemento che era stato bocciato esattamente 10 anni fa, cioè un trattato costituzionale europeo. 10 anni fa i francesi hanno bocciato questo trattato, e comunque l'idea che poi questo trattato aveva tanti difetti, però aveva un senso di approfondimento dell'unità politica europea. Da lì, da questo punto di vista, bisogna ripartire. Su Utopia abbiamo appena pubblicato un testo di Pier Virgilio D'Astoli, che era stato anche in qualche maniera il consigliere, cioè il braccio destro di Spinelli, e dice che dobbiamo ripartire dando anche in qualche maniera il potere al Parlamento europeo di pensare una nuova Costituzione europea e di farla approvare attraverso un referendum paneuropeo nel corso delle prossime elezioni europee. Comunque non abbiamo più la scelta, bisogna rimettersi a ripensare e rivedere i trattati per approfondire l'unione politica. In questo lungo romanzo, che è la storia d'amore tra la Francia e l'Europa, in che capitolo siamo attualmente? Siamo un capitolo molto negativo perché ci sono le critiche feroce. Si pensava che dopo il referendum del 2005 sarebbe stata una spinta di rigetto e poi che sarebbe ricaduto, invece abbiamo visto che ha preso corpo in particolar modo attraverso l'espressione del voto per il Fronte Nazionale, che rappresenta oggi il primo partito e che tutto lascia indicare che Marine Le Pen sarà al secondo turno dell'elezione presidenziale fra 2 anni, e poi soprattutto i più pro-europeisti in qualche maniera hanno abbandonato il campo, o se non lo abbandonano non lo rivendicano. Hanno un europeismo quasi vergognoso, nascosto, e questo è il vero problema. Il problema è che di farli uscire, di riprendere coraggio e di buttarsi. Il problema è sempre lo stesso, è che ovviamente le elezioni sono a livello nazionale e dunque cercano di seguire l'elettorato nazionale invece di prendere coraggio e di affrontare i veri problemi. Non si risolvono i problemi dei nostri paesi europei, dei diversi paesi europei, con delle risposte nazionali. Dalla scuola al lavoro, cosa non funziona nel modello tedesco? 31 maggio alle ore 16, questo è l'evento che vedrà protagonista Eric Josef. Grazie davvero Eric per essere passato qui ai microfoni dell'Altra Europa. Torniamo invece da Jacopo Sforzi. Jacopo, allora Crealo, che cos'è? Allora Crealo è uno spazio che vuole essere un luogo di scambio è di confronto tra chi fa impresa e chi invece ha delle idee da realizzare, chi vorrebbe quindi fare impresa. Quest'anno è la terza edizione, la prima edizione è nata nel 2013 grazie a una collaborazione tra Eurixe e la provincia di Trento, i quali hanno sviluppato un progetto per l'imprenditorialità giovanile e quindi tutta una serie di misure per promuovere la nascita di nuove imprese realizzate da giovani. Le state un po' presentando in questi giorni? In questi giorni stiamo presentando appunto una serie di imprese, una serie di realtà di giovani che hanno voluto mettere in campo le proprie esperienze, le proprie conoscenze, i propri percorsi di studio per realizzare i propri sogni, realizzare le proprie attività, e quindi stiamo mettendo in evidenza come i giovani che hanno la voglia di fare possono trovare anche l'opportunità per realizzare le proprie idee e i propri sogni. Ci fai qualche esempio? Un esempio interessante, magari, che ieri appunto sono state presentate alcune realtà. Sì. Un esempio interessante è un progetto che si chiama Fork in Progress, realizzato da Luana Stramaglia, una ragazza pugliese, la quale ha studiato prima in Puglia ma poi anche a Roma e Milano, che è tornata in Puglia grazie anche a delle politiche realizzate dalla Regione Puglia per realizzare appunto la sua idea. La sua idea è quella di abbattere quello che è un po' il gap generazionale tra i giovani che escono dal mondo della scuola, soprattutto dagli istituti tecnici in questo caso, e gli anziani invece a rischio di emarginazione, a rischio di esclusione sociale. E quindi ha realizzato un ristorante all'interno del quale, in collaborazione poi anche con l'Università di Foggia, riesce a mettere insieme anziani, quindi con esperienza nell'ambito della cucina, con ricette particolari, e giovani che escono dall'istituto alberghiero per lavorare insieme, e quindi attraverso quello che è un elemento attrattivo per tutti, che è quindi il cibo, riesce praticamente a colmare un po' questo gap generazionale e rende le persone, come possono essere appunto gli anziani, ancora attivi e volonterosi di fare qualcosa e di essere utili appunto per le future generazioni. Altri esempi, se vuoi, possono essere un progetto che verrà presentato domani alle 6:30, che è la fabbrica del sole, un progetto realizzato ad Arezzo, è una cooperativa la quale si occupa di progettazione e formazione del settore delle energie rinnovabili, che sono riusciti a brevettare uno strumento che si chiama Off Grid Box, per un sistema tecnologico integrato che produce e accumula energia rinnovabile per raccogliere appunto quella che è l'acqua inquinata per poterla poi riutilizzare, e sono riusciti dei ragazzi molto giovani a vendere e a utilizzare poi questa realtà in paesi in via di sviluppo come alcuni paesi del Sudafrica o Ruanda. Imprese di comunità, partecipazione e mobilità sociale, oggi alle 17:30 Arena Speech, domani invece innovazione, occupazione e sostenibilità, 18:30 Arena Speech. Chi sono i contadini 2.0 il 1 giugno? Sono tre eventi che ti vedono qui protagonista come moderatore o come relatore. In tutto questo, quanta Europa c'è? Quanta Europa c'è? C'è molta Europa, nel senso che gli agricoltori 2.0 sono agricoltori che magari hanno studiato all'estero in ambiti diversi da quelli che sono appunto il settore agricolo, ma hanno deciso di tornare in Italia, di mettere a frutto le loro conoscenze in un settore magari completamente diverso, per rinnovare quello che è il settore e per ritornare appunto un po' a quello che è la terra. Imprese di comunità è un fenomeno che in Italia se ne sta parlando molto negli ultimi anni, ma che all'estero è un fenomeno già sviluppato, come ad esempio se pensiamo all'Inghilterra o anche alla stessa Francia, e sono progetti ovviamente molto importanti in questi anni di crisi, nel quale si cerca appunto di rigenerare quelle che possono essere appunto delle comunità, che siano comunità rurali, quindi in aree interne, o rigenerare spazi urbani, quindi all'interno delle grandi città, che sono in declino, che non ritrovano risposte nelle istituzioni, e quindi vediamo come delle persone si mettono insieme per rispondere a dei bisogni che sentono propri. Questa è l'Europa che ci piace raccontare, l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Un grazie a Jacopo Sforza, un grazie ancora a Derek Josef, un grazie a Danissa. Adesso il traffico, poi ancora qua dal Festival dell'Economia con altri ospiti. L'altra Europa. Ancora Festival dell'Economia di Trento, pochissimi minuti, ancora tanti ospiti, quindi diamo subito voce ad alcuni dei protagonisti. Succedono cose in questo weekend a Trento, dove l'Europa è protagonista anche al di là del Festival. Con noi in questo momento hanno fatto intrusione, per fortuna e simpaticamente, i protagonisti di Filling the Gap, progetto europeo che vedrà una parte della sua realizzazione proprio domani qui a Trento. Ciao Federico. Ciao. Federico, vero? Sì, Federico. Perfetto. Lascia te te la presentazione, chi siete? Ecco, faccio parte di un'associazione, sono un professionista, sono psicologo e lavoro per AXAT, che è un'associazione di genitori che hanno figli autistici, e ci occupiamo di autismo qui in provincia di Trento. E come volevamo fare un progetto di integrazione, abbiamo proposto attraverso un bando europeo un progetto collaborando con la scuola Pelouro della Galizia, che è uno dei massimi istituti che lavorano e scuole che lavorano sull'integrazione a livello europeo. E quindi abbiamo portato qui 12 persone spagnole che passeranno, che hanno passato 7 giorni con 12 persone italiane qui a Trento, e l'evento conclusivo sarà questo spettacolo che ci sarà domani in Piazza d'Arogno alle 16. Okay. Uno spettacolo di danza. Mm-hmm. E non ci hai presentato lei. Ecco, e lei è Laura. Ciao Laura. Del Pelouro. Ciao Laura, tu vieni dalla Galizia invece? Sì, vengo dalla Galizia e facciamo parte di questo progetto. E bueno, ti vuoi dire un po' il senso dello spettacolo? È fare un spettacolo attraverso la danza e ponere in alza la integrazione di tutti i bambini. Noi abbiamo anche nella nostra scuola una compagnia che si chiama Eudanza, di bambini sempre in integrazione, e siano abituati a danzare e fare questo percorso, no? È troppo bello perché ne siamo incontrati tutti questi 24 persone, faremo una roba di verità, veramente l'integrazione davvero, e anche l'emozione di essere attraverso il corpo, manifestarsi. Questa è l'Europa che ci piace raccontare, grazie davvero e complimenti. Ricordiamo l'appuntamento domani alle 16 in Piazza d'Arogno qui a Trento. Perfetto, in bocca al lupo, grazie davvero. Grazie mille. Grazie. E ci sarà spettacolo anche qui al Festival dell'Economia in programma, infatti il 1 giugno alle 21 c'è una conferenza, spettacolo, il titolo è Shakespeare, economista, ovvero la mobilità sociale nel mercante di Venezia. Tutto ciò è un po' così curato, ideato da quello che sarà anche il relatore Enrico Reggiani, professore associato di letteratura inglese all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che è in collegamento telefonico. Ciao Enrico, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno carissimi, buon lavoro. Cosa c'entra Shakespeare con la mobilità sociale? Come cosa c'entra Shakespeare? Shakespeare è come dire, uno dei massimi intellettuali del suo tempo che riflette sulla mobilità sociale, ne dà conto, ne cerca di rappresentarne le dinamiche, anzi potremmo dire che è colui che nel suo tempo meglio ne rappresenta le dinamiche. Mobilità sociale in Shakespeare si traduce nel suo teatro, nei suoi sonetti, in termini linguistici, perché il linguaggio se ne appropria, nei termini della concezione del teatro, nei termini dei rapporti economici, perché Shakespeare è imprenditore teatrale estremamente coinvolto nel suo tempo, ma è anche capace di dar conto delle trasformazioni che peraltro il suo tempo vive in maniera radicale, con in modo irraggiungibile per gli altri. Non so, certo, se sono stato chiaro. Sei stato chiarissimo. Alla chitarra Sara Gianfelice, le letture, esatto, di Alessandra De Luca, la nostra Alessandra De Luca, e Dario, certo, Dossena, certo. Ieri sera Bergonzoni diceva che per capire la mobilità sociale serve la poesia, serve l'arte. Mi pare che la tua sia la risposta a questa sua, a questo suo appello. Guarda, non c'è dubbio, non solo serve, diciamo, la poesia, ma come hai detto giustamente, come diceva Bergonzoni, serve tutta l'espressione artistica che l'essere umano riesce a mettere in campo. Per questo cercheremo di far parlare la musica, grazie a Sara Gianfelici, che ci darà il senso, diciamo così, dell'esperienza sonora, perché insomma altrimenti rischiamo di portarla troppo vicino ai nostri giorni, e soprattutto grazie a Alessandra e a Dario, appunto Alessandra Luca e Dario Dossena, cercheremo di commentare frammenti, perché è poi questo che dobbiamo fare soprattutto, no? Entrare in contatto, avvicinarci all'autore di cui ci occupiamo, commenteremo, ragioneremo su frammenti che diano il senso appunto di questa straordinaria mobilità sociale che l'epoca di Shakespeare viveva, ma mi verrebbe da dire forse persino più della nostra, anzi è una cosa facile da dirsi, ma mi viene da dirla. Grazie davvero Enrico, in bocca al lupo. Grazie per a voi, buon lavoro, la nostra buona serata, sera. Ciao ciao. E chiudo questa puntata, abbiamo poco meno di un minuto, insieme a Miguel e Onia, altri due protagonisti dell'Erasmus qui a Trento. Ciao Miguel. Ciao. Da dove vieni? Dalla Spagna. E cosa studi? Studio ingegneria civile qua, come siamo? Come va l'esperienza italiana? Benissimo, io sono innamorato dell'Italia, cioè, vorrei questa, rimanere qua. Questa affermazione è post spritz, lo vedo nei non eri tra. Poi c'è Onia invece dalla Germania, giusto? Sì, sì. Tu cosa studi? Storia dell'arte. Storia dell'arte. Com'è vivere da... Insomma, qui c'è apertura, la Germania è vicinissima. Ti senti un po' a casa qui a Trento? È diversa perché Monaco, dove ho studiato prima, è molto vicino, solo 4 ore con il treno, ma la vita qui è molto diversa. Ok, grazie anche a voi per averci raccontato oggi un po' di carrellata di ragazzi Erasmus qui, ma abbiamo veramente pochissimi secondi, giusto il tempo per salutare Miriam Lucchetti e Filippo che qui ci hanno accompagnato da Trento. Filippo, non mi ricordo il tuo cognome, perché? Aureggi, dopo 15 anni di Radio 24 ho avuto un buco, scusami. Un saluto, Radio 24 sarà ancora qui protagonista in Piazza Pa-